Il rapporto tra la scrittura semica e i sigilli magici, mi riferisco ai sigilli magici della Chaos Magic, hanno un legame che può sembrare sottile, ma in realtà c'è una profonda connessione, poiché in definitiva si tratta di due poteri. Da una parte, nella Chaos Magic, c'è il potere della mente. Invece dall'altra parte, per quanto riguarda la scrittura semica, il potere del linguaggio segnico, potremmo chiamarlo. Infatti quello che vediamo come scrittura, che può essere segnica o asemica, è una forma di comunicazione che va oltre il significato, oltre le parole, e quindi gioca sul confine tra il visibile e l'invisibile. La Chaos Magic è una corrente magica che è distinta per la sua natura soggettiva e anche molto flessibile. Non si lega, diciamo, a tradizioni rigide, ma si adatta a qualsiasi tipologia di sistema che permetta di ottenere risultati. E appunto uno degli strumenti fondamentali della Chaos Magic è il sigillo magico, che è una forma simbolica creata per canalizzare, per veicolare l'intenzione e il desiderio di chi pratica. Praticamente si crea un simbolo che rappresenta un intento specifico e poi si usa questo simbolo per caricare, infatti viene proprio definito in questo modo, l'intento con una forma di energia psichica. E una volta fatto questo va dimenticato completamente. Infatti, che questo processo della dimenticanza, diciamo, del sigillo è fondamentale perché per la Chaos Magic il desiderio, cioè quello che viene espresso tramite il sigillo, deve essere lasciato andare, deve vivere da sé, diciamo così, per non ostacolare il proprio compimento. La scrittura, è già in un certo senso una forma di sigillo. È un segno che nel momento in cui viene scritto contiene il potere di evocare alcuni significati. E, per esempio, quando viene creato anche un sigillo, spesso gran parte del processo, consiste prima nell'astrarre e semplificare anche parole, frasi che esprimano il nostro desiderio. Poi queste parole, queste frasi vengono poi riorganizzate in una forma che non può essere facilmente letta o interpretata in maniera cosciente. E diventa quindi una forma di scrittura cifrata, cioè un linguaggio che non comunica in maniera diretta, ma che allude a qualcosa di più profondo e soggettivo. E questo processo di astrazione del sigillo della Chaos Magic è molto simile alla scrittura semica, che anche la scrittura semica non ha un significato convenzionale, cioè non veicola un messaggio, oppure parole o concetti in modo tradizionale, ma anche in questo caso è un modo per evocare sensazioni, emozioni, tutte, diciamo, leggibili e interpretabili dal fruitore. Si tratta di un linguaggio privo di senso nel nostro mondo, però ricco di senso per quanto riguarda l'inconscio. Proprio come nel caso dei sigilli, questa scrittura senza parole, possiamo chiamarla anche così, permette a chi pratica, a chi crea il sigillo, di creare uno spazio in cui la mente può accedere a dei livelli di percezione e di ricezione non verbali, quindi al di là di significati o di messaggi predefiniti. Nel contesto della Chaos Magic, quando si carica un sigillo, è il momento in cui si concentra tutta l'intenzione in quel simbolo, in quel segno, dando vita a una sorta di energia che si sprigiona attraverso il simbolo stesso. Questo processo praticamente coinvolge spesso una sorta di alterazione dello stato di coscienza che può avvenire attraverso meditazione o altre tecniche psicologiche, che però sono simili a quello che accade nella scrittura semica, che quando viene praticata, mi riferisco anche alla pratica della scrittura anche letta dall'arte terapia come una sorta di liberazione. E anche la scrittura semica nasce spesso da uno stato di flusso o di ispirazione spontanea o caotica. E infatti il significato non è tanto nel segno, ma nel momento in cui viene scritto. Un po' come se l'opera d'arte, in questo caso letta attraverso un punto di vista artistico, sia non tanto nell'opera, nel segno in sé per sé, ma nel gesto. E si tratta di un momento di massima concentrazione e di immersione totale nell'atto creativo. E paradossalmente, però, proprio nel momento in cui si è lontani dalla ricerca di un significato razionale, è proprio lì che il segno, come prodotto del gesto, può acquisire una potenza inaspettata. E per questo la scrittura semica e i sigilli magici si incontrano proprio in questo spazio, perché entrambi sono metodi per spingere la mente, la percezione e l'immaginazione al di là del linguaggio ordinario. Se nei sigilli, quando vengono praticati, l'intento è canalizzato in un simbolo per operare un cambiamento nella realtà. Nella scrittura semica anche l'atto di scrivere diventa una sorta di atto magico in sé per sé, magico nell'accezione di capace di evocare nuove possibilità e nuove sensazioni, sia per chi pratica scrittura semica, sia per chi fruisce, per lo spettatore, diciamo, del prodotto artistico. Entrambi, appunto, si basano sulla consapevolezza che il significato non è fisso, non è univoco, e che la vera magia, se possiamo chiamarla così, sta nel poter interagire con il potere dei simboli in un modo personale e soggettivo. Di fronte alla scrittura semica, la soggettività dello spettatore ricopre un ruolo fondamentale, una forma d'arte che non è creata essenzialmente e unicamente dall'artista, ma che ha vita proprio perché c'è un fruitore che magari dà anche un'interpretazione totalmente diversa rispetto a quella dell'autore. Proprio per questo non ci sono limiti a come possiamo usare la scrittura, in questo caso la scrittura semica, appunto come strumento artistico. Il sigillo della Chaos Magic o anche una scrittura semica che potremmo definire sigillo, infatti non è soltanto un simbolo, è un simbolo con un significato soggettivo, intendo. È una forma di linguaggio che risuona con la parte dell'inconscio. E anche la scrittura semica, in un certo senso, lo è, perché entrambi ci spingono a riconoscere il potere che è in ogni segno, in ogni traccia che viene lasciata sulla carta. Questo è come un invito a esplorare ciò che non è leggibile, ciò che non è comprensibile e visibile, ma che è sempre presente sotto la superficie della realtà. In conclusione, possiamo dire che il legame tra i sigilli magici e la scrittura semica ci parla di una magia che non ha bisogno di parole chiare o di messaggi univoci per essere potente. È una magia che risiede nel gesto, nel simbolo e soprattutto nell'energia in cui carichiamo o elaboriamo questi segni, appunto un'arte che sfida i confini della comunicazione e ci invita a guardare oltre le apparenze, verso appunto questa essenza mutevole, soggettiva, ma poetica della realtà.